Pazza, perché bravissimo, perché non erano su? Allora bentornati, bentornati a tutti ragazzi, 27esima puntata di All Time Rock and Roll. Questa è Radio F Val di Chiana. Perché innanzitutto diciamo che la puntata pazza, perché pazza? Allora normalmente la facciamo ogni 10 puntate, giusto? Sembra. Cos'è la puntata pazza? Siamo in 5, scegliamo 3 canzoni a testa, quindi 15 canzoni che così scelte da noi a caso, non devono essere necessariamente rock. Soprattutto pazza perché senza scaletta, giusto? Sì. Abbraccio, esatto. Abbraccio. Tipo il mio, eh. Ma perché pazza? Allora, è grosso. Perché pazza? Innanzitutto l'abbiamo anticipata. Infatti non è la 30esima puntata, ma la 27esima. Pazza anche perché siamo soltanto in 3. Infatti Alessandro, cioè Luke, e Valerio, cioè il Nanno, non ci sono perché sono a vedere la Viola. Bella squadra. Giusto, bello. Grandissima squadra. Non mi intendo di calcio, quindi non do la mia opinione. Di calcio? Di calcio. Ah, ricordiamo stasera Fiorentina-Napoli. Uno secco sicuro. Uno secco. Secco, secco. Quindi dicevamo 15 canzoni scelte da noi come non rock, infatti ci sono di tutti i tipi. E devo dire che però essendo sotto Halloween, sotto Halloween, abbiamo scelto anche un po' di canzoni appunto tema Halloween. Howling. Iniziamo, vado subito con la prima. Vai. Vado subito con la prima, che tra altre cose è di Valerio. Ah, proprio l'ha fatta. Scritta, sì, proprio l'ha fatta lui con i Ramones. Cavolo, è grande, Valerio. Bravo, non lo sapevo neanche io, è incredibile. Ed è Pet Sematary. Un singolo della band punk, appunto, Ramones, è stato pubblicato nell'album Drain Brain del 1989. Pensate, Valerio era già piccolino. E già suonava in una band rock. Ramones. Io allora, ragazzi, visto. Dovete sapere, siamo in 3, io il padre, che sono l'unico speaker ufficiale, ma mi aiutano i due tecnici, il Bindo e il Masa. Aiutano. Ci si prova. Siamo un po' così. Cioè, lui ci prova. Io spero di finire la puntata. Io o bene o male, io lo dico. Male. O noi o loro. Dove e quando? Presente dove? Dove? presente nella colonna sonora della versione italiana del film Cimitero Vivente. Un po' Halloween anche questo. Halloween. Ha raggiunto la posizione 4 nella Billboard Modern Rock Track. Nel videoclip la band appena appare cantare all'interno di un camposanto ed all'interno di una fossa cimiteriale. Che bella immagine simpatica. Giocarono sul fatto di essere presenti come band viva e vegeta all'interno del cimitero e di essere come fantasmi nell'alternarsi delle scene precedenti. Infatti in quel periodo la band era data diciamo per spacciata, addirittura con l'avvento della sbandata rap del bassista Didi Ramon. Ha preso una sbandata, no? Sbandata, sì, grazie sbandata. Della la sbandata. La canzone è stata reinterpretata dai Blackyard Babies nell'album tributo alla band, appunto, The Song Ramones. Quella The che state Same. Sentendo in sottofondo non è la canzone, ma è un telefono. Come un telefono? Il telefono del Manzeo. No. Perché? Okay. Non c'è nessun telefono. No. No, ma chi? No. Sentivo anch'io sembrava un telefono. Senti, lo sento. È l'atmosfera Halloween. Wow. Appunto, comunque rifatta dalla band Backyard Babies nell'album tributo alla band, come appunto ho detto, The Song Ramones The Same, e addirittura dai Rammstein come quinta traccia all'interno della versione tedesca del singolo Each Will. E adesso Pet Sematary dei Ramones. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More limbs and fangs, but picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Ed erano i Ramones con Pet Sematary. E adesso passo la parola al nostro carissimo tecnico. Ma, un momento, svegliamo l'arcano di prima. quella colonna sonora. No, no, ah, no, ma no, no, era una base nuova, sperimentale. Era la base bellina, Halloween. No? Bellina. Io tutte le mattine. La scelta del patro, questa è la base. La base era la sveglia del patro. Che vuoi? Perché mi ha suonato alle 7:10, non la metto in la sveglia alle 7:10. Ma poi infatti, alle 7:10, perché 7:10? Non lo so, boh. Vabbè, boh. Era la mia sveglia. Boh. Va bene. Va bene, ora sta biondo. Le blonde. Allora, Just Imagination è il terzo singolo estratto dal quarto album dei Cranberries Bay. Del 1999. Musica e testo del brano sono stati scritti da Dolores Oriordan, cantante del gruppo Mike Hogan. L'11 aprile del famosissimo 2000, fratello sì, di Hulk Hogan. Hogan. No, sto scherzando. Bravo, allora, bravo. Nell'aprile del 2000 è uscita anche una versione italiana in edizione limitata dei Cranberries, Just Imagination. Questi erano i Cranberries, Just My Imagination. Te lo annoia? No, no, ma sì, non ci si entra, no, no, no. Si entra un po' stretto. Sentite? Va bene? Sì, ora sì, ma... Ah, bene. Prova. Ah, ah. Guarda, prova. Prima no. Se lo metti in fila sparisce, guarda. Allora, bene, adesso sta a me. Che era un cane. Gatto? Allora, adesso andrò a leggervi Heroes di David Bowie, scelta da chi l'ha scelta questa? Luke? Sempre Valerio. Sempre Valerio? Sì. Ah, ok. Sicuro? Sì. Bene, Heroes, appunto tradotto in italiano eroi, è un brano musicale di David Bowie. Sì. Che dà il titolo al suo omonimo album del 1977. Sì. Sì. Sì. Sì. Si tratta di una delle composizioni più celebri di Bowie, scritta in un periodo dove il Duca Bianco era sprofondato in una tremenda crisi. Viveva a Los Angeles, distrutto dalla cocaina e dall'alcol. Addirittura anche i suoi amici Elton John e John Lennon, quindi John Elton John, pensavano che fosse prossimo alla morte. Fino a quando David si trasferì a Berlino ed iniziò la risalita professionale e umana. Scusate. Proprio a Berlino. Un ragno mentre un ragno in bocca. L'operazione delle tonsille settimana scorsa, questa era bimba. No, ho mangiato un ragno. Proprio a Berlino comporrà il brano Heroes insieme a Brian Eno e le canzoni che comporranno l'omonimo album. Nel 2004 la canzone è stata inserita alla posizione numero 46 della classifica delle 500 migliori canzoni di sempre, redatta dalla rivista Rolling Stones. Heroes è il grido disperato dell'ultimo romantico sulla Terra. Attenzione, c'è il Manzio, sta cercando la canzone. In un mondo ormai distrutto, David cerca di implorare la sua ragazza a non andarsene e a scegliere strade più semplici. Perché come lui nella canzone We can be heroes just for one day. Possiamo essere eroi solo per un giorno. Lo sfondo di Heroes è il muro di Berlino, ostacolo fra due amanti e simbolo della guerra fredda. E adesso Heroes, David Bowie. Yes. Questo era David Bowie con Heroes. La terza ed ultima canzone scelta dal nostro Valerio, che oggi non c'è. E adesso il biondo. La mia canzone. La mia canzone. Scusate, questa è del biondo. Ah, questi no, sì, questa sì, di ora. Questa è proprio scelta da... questa è del biondo, scelta dal biondo, letta dal biondo. Dove ovunque? Vai, biondo. Dove e quando l'hai vai. Scelta? Dove? Al lavoro. Quando? Mentre lavoravo oggi. Dove e quando? Al lavoro? Ah. Quando? Oggi, oggi mattina. Oggi mattina. Dopo racconta la telefonata che ti ha fatto oggi in Masa per telefono per dirti le canzoni. No, no. C'è il telefono che sembra che sia un po' lontano. Sembra, è il telefono. Va bene, dai. Allora, la mia canzone è Rock DJ di Robbie Williams. Bella? Ti garba? Sì. È un brano del cantante inglese Robbie Williams, registrato per il suo quarto album, Sing When. Dove sei? Sono qui, guarda, penso... Sing when you are winning. È l'inglese, ragazzi, è l'inglese. Cioè, canta quando tu... You are winning, quando sei vincente? Quando tu... Dai. Pubblicato nell'estate del 2000. Il video prodotto da Vaughan Arnell. Dove sei arrivato? Qui, è stato un rigo. Ah. Sai, con le righe io ci vado... Il video prodotto da sì, registrato Arnell. Registrato per il suo quarto album single, non si è detto, no? Nel 2000 sì, d'estate. Sì. Il video prodotto da si chiama Vaughan è stato accompagnato da pesanti polemiche per via dei suoi contenuti fin troppo espliciti. Nel video il cantante sta danzando su un cubo di una discoteca e per attirare l'attenzione di una bella DJ, tipo quando ci voglio il sabato sera. Sì. Andiamo al bar. È che al tiro butta fuori. Risco nel sabato di sera. Ballare, allora, cominciava a levarsi i vestiti. Quando il DJ continua a non guardarlo, William si strappa prima la pelle, poi i muscoli ed infine gli organi. È vero, è bello tosto bello. Come video, l'hai mai visto? Potremmo fare per Halloween questo giovedì. Tanto. Ci hai pensato? Vero. Giusto? Sì, È che tanto sì. A noi ci guarderebbe nessuno lo stesso. No, per non dire peggio. Strappa la pelle al Marzio. Ah, vabbè. Ma il ferro si strappa male. Se mi scaldi. Come fondi. Va bene, dai, continuiamo. Rimanendo semplicemente fino allo scheletro. Williams, fino alla tensione. Allora, strappa la pelle, poi, visto? Sì. Allora, ma tirando alla fine l'attenzione della donna. Nella sua formato integrale, il video non è stato mai trasmesso da canali tematici, compreso MTV, e comunque non durante la programmazione diurna. Ma non è vero. Come no? Boh, è vero. No, lo davano su MTV. Ma di giorno però, sì. Di giorno l'ho mai visto. Forse la versione completa forse lo davano. No, ma neanche mi ricordo di aver mai visto la versione non completa. No, ma magari quando non lo so. Boh, vabbè. Nonostante ciò, nel 2001 il video vinse l'MTV Music Awards. Se nella non sezione... è mai stato trasmesso su MTV, come ha fatto a vincere l'MTV Music Awards? In quell'anno, nel 2001, c'è il caso che poi... Ok. Allora, migliore effetti ha vinto come migliore effetti speciali e nel 2006 si è piazzato al settimo posto della speciale classifica di MTV. Cambio pagina, ragazzi. Basta, finita. La canzone. Finita? Sì. Finita. Robbie Williams, Rock DJ. Yes. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. Got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Ed era Robbie Williams con Rock DJ. Siamo sempre qui su Radio F, questo è All Time Rock and Roll, e con la nostra puntata pazza. Pazza perché scegliamo noi le canzoni senza scaletta, e pazza soprattutto perché siamo in tre. Un solo speaker, che sono io, il Patru, seguito dai due tecnici, il biondo, che è qua, e il bindo, è qua. Andiamo avanti con la seconda canzone di Alessandro, giusto? Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ed è Surface to Air, un brano estratto da Push the Bottom, il quinto album di inediti del gruppo di musica elettronica The Chemical Brothers, pubblicato il 24 gennaio 2005 dall'etichetta discografica Virgin. Il titolo del disco, pubblicato anche in vinile, è tratto dal testo del brano Galvanize, singolo di successo estratto appunto da questo album. In molte nazioni l'album è stato soggetto di censure per i messaggi espliciti contenuti nei testi delle canzoni. Pensa un po'. E adesso i Chemical Brothers con Surface to Air. Thank you. questi erano i Chemical Brothers, Surface to Air. Adesso una canzone anche per rendere omaggio, diciamo, a un grande cantante rock, Lou Reed, che è venuto a mancare l'altra settimana. Un grande. Un grandissimo. Perfetto. Che aveva quanto, 70? 72, se non sbaglio. E che ricordiamo con una delle sue canzoni più famose, diciamo, Perfect Day. E questa canzone è scritta appunto da Lou Reed, è pubblicità del suo album del 1972, Transformer. Il brano ebbe un ritorno di fama negli anni 90 grazie alla sua inclusione nella colonna sonora del film Trainspotting nel 1996. L'incisione originale venne prodotta da David Bowie su arrangiamento di Mick Ronson, che suonò anche il pianoforte nel brano. Il testo della canzone è stato spesso interpretato come la descrizione di una convenzionale storia d'amore, con possibili allusioni alla relazione di Reed con Betty Kronsted, che sarebbe diventata la sua prima moglie, e ai conflitti interiori di Lou con la propria sessualità e con le droghe. Molti altri commentatori hanno visto il testo sotto la luce di una romanticizzata metafora del periodo di Reed come tossicodipendente dedito all'uso di eroina. Così la canzone sarebbe un'ode all'uso della droga come annientamento di se stessi e della paura di vivere, come lo stesso autore ha più volte fatto intendere. Quindi Reed, quanto afferma, sono felice di aver passato la giornata con te. Si riferirebbe all'eroina? Chissà. Noi ve la facciamo ascoltare, Lou Reed, Perfect Day. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Ed era Lou Reed con Perfect Day. Lo ricordiamo che purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, domenica. Vabbè, un grande del rock. lo sappiamo benissimo. Andiamo avanti, andiamo, parliamo di The Seed 2.0, conosciuta anche semplicemente come The Seed. È un singolo del gruppo musicale hip hop statunitense The Roots, inciso in collaborazione con il cantante neo soul georgiano Cody Chestnut, pubblicato dall'etichetta discografica MCA il 31 marzo del 2003. Il brano è stato scritto da Chestnut insieme a Tariq Trotter e prodotto da The Grand Wizards. È stato originariamente inserito nell'album di debutto di Cody intitolato The Headphone Masterpiece e pubblicato nel 2002 e successivamente reinciso insieme ai The Roots nella versione che ha ottenuto il successo internazionale. Questa seconda versione è stata inserita in una riedizione di Phrenology, scusatemi, dei Roots in seguito al successo ottenuto nell'estate 2003. Addirittura con questo brano in Italia i The Roots e Cody hanno partecipato al Festival Bar 2003. I The Roots con The Seed. You just drop your cold, cause one nugget don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my way, and the world finna know my name. I don't ask Ed era The Seed dei The Roots. E adesso presenterò la mia prima canzone di oggi. La prima. Ed è Be Yourself, il primo singolo degli Audioslave per il loro secondo album Out of Exile. Il brano è stato rilasciato nel 2005 e si piazzò al primo posto della classifica Hot Mainstream Rock Track per 7 settimane e nella Hot Modern Rock Track Chart per 4 settimane. Molti la riconosceranno in quanto questa canzone è stata usata nella serie televisiva Scraps nell'episodio Il mio riflesso nello specchio. Adesso Be Yourself degli Audioslave. Sleeping all alone. Questi erano gli Idoslave con Be Yourself, la prima canzone scelta da Polpona. E adesso e adesso c'è la canzone scelta da me, la prima che ho scelto per questa puntata. Si tratta, per appunto rimanere in tema di Howlin', un certo Michael Jackson con Thriller. Questa canzone, scritta appunto da Michael Jackson, come potete sentire sottofondo, pubblicata nel 1984, tratta dall'omonimo album ritenuto il disco più venduto della storia della musica, con una stima di oltre 110 milioni di copie all'attivo. Prima che il singolo fosse pubblicato, Michael Jackson aveva deciso di chiamarlo Give Me Starlight, poiché l'album Thriller doveva intitolarsi Starlight. In seguito l'idea fu scartata e sia l'album che il singolo vennero entrambi chiamati entrambi Thriller. Thriller è stato il singolo di maggior successo di Michael Jackson dopo Billie Jean. Si piazzò quarto nella Billboard The Hot 100 statunitense, decimo in quella inglese, ventunesimo in quella tedesca, primo in quella francese, quarto in Australia, il terzo in Danimarca, primo in Belgio ed infine primo nella classifica dance americana di Billboard, posizione che mantenne per 11 settimane consecutive, un record. La canzone vendette oltre 6 milioni di copie nel mondo ed è ancora oggi molto richiesta in radio. Il cantante la eseguirà in tutti e tre i tour da solista, quali il Bad World Tour, il Dangerous World Tour e infine l'History World Tour. Cantata live solo nel Bad World Tour e in playback, ma con straordinarie coreografie negli altri due tour. La canzone è di genere dance, funk ed è stata scritta e composta da Rod Temperton, mentre è stata prodotta da Quincy Jones, amico di Jackson, che con lui ha prodotto tre album: Off the Wall nel 1979, Thriller nell'82 e Bad nel 1987. E adesso vi facciamo sentire Thriller, Michael Jackson.

man, come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you are with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Questi erano i Jet con Are You Gonna Be My Girl, proposta dal Polpona. Polpissimo. Bene, adesso tocca la mia seconda canzone, anzi no, terza canzone scelta. No, seconda. Seconda, seconda canzone, sì, ancora non mi manca l'ultima. E ho scelto, sempre per rimanere in tema Howlin', una canzone degli AC/DC che inizia con Hells e inizia e finisce con Bells. E Hells Bells è appunto un celebre brano del gruppo musicale AC/DC dall'album Back in Black del 1980. È dedicata, come tutto l'album, al cantante Bon Scott, morto nel 1980 a Londra per abuso di alcol. Il brano si apre con un suono di campane a morto, che sono appunto un tributo del defunto cantante, a cui si va poi ad aggiungere uno dei riff di chitarra più famosi di Angus Young, che precede l'ingresso della strumentazione del gruppo al completo. Il brano è stato usato in moltissime colonne sonore di film, tra gli altri Brivido, che non conosco, no, nelle cerimonie d'apertura di manifestazioni sportive e in numerosi altri contesti. Lo si trova nella maggior parte... mi sono perso... Parte del raccolte degli album dal vivo degli AC/DC, e dalla sua pubblicazione è stata eseguita in quasi tutti i concerti del gruppo. I 13 rintocchi di campana che aprono il brano furono registrati presso un campanile detto Carillon, che fa parte di un monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale presso Loughborough nel Leicestershire. Per il tour mondiale successivo, gli AC/DC fecero invece forgiare appositamente una campana con il logo del gruppo, che verrà colpita da Brian Johnson con un grosso martello all'inizio del brano. A partire dal tour di Ball Breaker, la campana fu invece sostituita con una replica di maggiori dimensioni, ma in materiale plastico. Pare infatti che la campana originale fosse caduta sul palco in seguito ad un cedimento del gancio di supporto quando il palco era ancora in costruzione, e venne pertanto deciso di utilizzare un sostituto più leggero per prevenire incidenti ben più gravi. E questi sono gli AC/DC Hell's Bells. Ed erano gli AC/DC con Hell's Bells. Questo è sempre Old Time Rock and Roll Radio F, ricordiamo, puntata pazza, le 15 canzoni, 3 canzoni scelte da noi, e così a caso, senza che siano per forza rock, senza scaletta e via. Tra le cose, puntata pazza anche perché siamo partiti in 3, normalmente siamo in 5, 2 Alessandro e Valerio non ci sono oggi, sono a vedere la viola, come ho già detto. Tra le altre cose, ne abbiamo perso anche un altro per la strada. Infatti anche il secondo tecnico, Mirko, se n'è andato, è dovuto andare via. Vabbè, siamo rimasti solo io e il padre accanto a me, il Bindo. Continuiamo la mia terza e l'ultima canzone, l'ultima canzone che ho scelto per oggi, visto che domani è Halloween, come sai benissimo, Bindo. Halloween, esatto. Esatto, Halloween. E che canzone ci proponi? Beh, diciamo, ho scelto una canzone che non tanto la canzone, ma il film che mi piace da morire, lo sai benissimo anche questo. Sì, certo, Notting Hill. No. La canzone è This Is Halloween, una canzone del compositore Danny Elfman, creata per il film Nightmare Before Christmas, che adoro. 1993, ideato da Tim Burton. Questa è una delle canzoni principali del film e viene cantata all'inizio del film, appunto, dagli abitanti di Halloween Town e dal protagonista del film, Jack Skeleton. Quindi tratta dal film The Nightmare Before Christmas, This Is Halloween. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting now to pounce and how you scream. This is Halloween, red and black, it's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, everybody scream. Flash and follow the trace. I am the who in the cold, who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tinderlumpkins everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Steady Tin Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Farmer Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. This is Halloween, tratta dal film The Nightmare Before Christmas. Fantastico. Vai. Bene, adesso per arrivare in fondo alla puntata, l'ultima canzone, la terza canzone scelta da me, che vi vado a leggere adesso, ed è di Ozzy Osbourne, appunto sempre per ricordare Halloween, pipistrelli, gente che mangia la testa ai pipistrelli. Crazy Train. Crazy Train, appunto, è un celebre singolo di Ozzy Osbourne contenuto nell'album Blizzard Oz, Oz, scritto dallo stesso Ozzy Osbourne. Insieme a Randy Rhoads e Bob Dainsley venne pubblicato nel 1980, diventerà una delle canzoni heavy metal più apprezzate e più famose di sempre. In questa canzone Ozzy sembra esprimere la sua opinione di come il mondo si stia trasformando, soprattutto nell'epoca in cui la canzone fu registrata. Usando frasi come "Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate", che tradotto significa forse non è troppo tardi per imparare ad amare e dimenticare come odiare, oppure anche I know that I oppure anche I know that things are going wrong for me. Bravo. Sì. You gotta listen to my words, che tradotto significa lo so che le cose vanno male, devi ascoltare le mie parole. Anche se è sbiadita la scritta e non riesco a leggere bene, attenzione, anche se sostanzialmente tutto il brano riprende il medesimo tema della canzone, punto. chi l'avrà messo? Va. Celebre l'assolo di chitarra eseguito da Randy Rhoads, che è segnalato al nono posto tra i migliori assoli della storia della musica secondo Guitar World. E adesso Ozzy Osbourne con Crazy Train. Ed era Ozzy Osbourne con Crazy Train. Grazie dell'avvertimento, Bindo, che stavamo sorpresa. Rientrando. Ragazzi, era l'ultima canzone di quest'oggi, l'ultima canzone di questa puntata pazza. Pazza perché abbiamo scelto noi le canzoni, siamo andati senza scaletta. Pazza perché siamo rimasti in 2 su 5 alla fine. Vabbè, non importa, siamo andati bene, dai, Bindo, vero? Sì, sì, sì, bene, sì, bene. Sì. Ragazzi, ritorniamo settimana prossima, mercoledì prossimo, con la puntata normale, cioè riprenderemo la storia del Rocky, i compleanni, il contest, le citazioni e tutto il resto. Ritorneremo in 5, forse, chi lo sa, non si sa. Io vi auguro, ricordiamo anche, vabbè, la pagina dei nostri appuntamenti, la pagina Facebook, Old Time Rock and Roll, Radio F Valdichiana, il contest, cioè le 5 canzoni che noi scegliamo, voi votate, e in più il podcast di questa puntata pazza. Io vi saluto, ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20. Io sono il padre Catamir Bindo e ciao. Buon Halloween, ciao a buon tutti! Halloween, ciao!